noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non vi preoccupate, io rappresento in questo momento, sono il responsabile dell'area tecnica del Milan. Abbiamo una società abbastanza con le idee chiare. Se non siamo in grado di tutelare e difendere il Milan, è giusto che ci andiamo tutti a casa. Io posso tranquillizzare i tifosi che noi siamo vicini a Gigio, che tuteleremo Gigio in tutte le maniere, così come tuteleremo la AC Milan da qualche signore che un po' sta danneggiando la nostra immagine, l'immagine del giocatore forse più rappresentativo e più importante del Milan, quindi ci danneggia, e quindi vedremo un po' cosa fare. This is my December. This is my time of the year. This is my December. This is also clear. È inutile che ci nascondiamo, poi ognuno di noi ha le proprie cose, rientra nella sfera personale, noi possiamo entrare e parlare con lui fino a un certo punto, poi anche lui un giorno, io credo che un giorno si accorgerà dove sta il bene e dove sta il male. Mi dispiace, c'è grande rammarico da parte mia, perché si sta facendo passare un ragazzo di 18 anni che qua fra un po' fa 19 anni come un mostro. Mirabelli e Gattuso. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Questa è una... Beh, storia di Natale mi sembra troppo. Nightmare Before Christmas, io direi, però è la storia del momento. Pertanto abbiamo riconvocato Marco Bellinazzo, questa volta di persona. Eccoci, ciao. Buon pomeriggio, ciao Carlo. Abbiamo tirato giù dai piani alti del Sole 24 Ore. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Che meraviglia di voce, Pardo. Visto. Allora, ricapitoliamo. Partiamo dall'ultimo atto, cioè da quello striscione che avete visto tutti ieri sera a San Siro, dove un buon Milan, peraltro e per inciso, ha battuto il Verona 3-0, si è qualificato per il derby di Natale. Questa volta sì, potrebbe essere una bella favola, il 27 di dicembre, derby di Coppa Italia. Però c'è quello striscione che sostanzialmente è l'atteggiamento del pubblico, che sostanzialmente ha detto: bene, ci siamo stufati, adesso vai via, perché non ne possiamo più. Una presa d'atto, diciamo, in una tifoseria che aveva perdonato in estate e che chiaramente ora viene un po' portata all'estremo dalla nuova vertenza, chiamiamola sì, così, che si potrebbe aprire, sì, probabilmente adesso, non si aprirà mai. E adesso ricapitoliamo con Marco gli aspetti giuridici, legali ed economici di questa faccenda. L'aspetto emotivo, e qui condivido con Pierluigi, è che si è creata una situazione tale per cui è impossibile, onestamente, per Donnarumma, che è, ripeto, come dice Gattuso, l'abbiamo sentito, Mirabelli e Gattuso, la nostra copertina, è impossibile giocare a San Siro in questo momento. Per lui è un linciaggio di un ragazzo di 18 anni, sì, che fa quello che gli dicono, la situazione che si è creata non è Ibrahimovic che ha due spalle così, è Gigio Donnarumma che di anni ne ha 18. Ma guarda, io torno a quello che dicevamo quest'estate, quando c'era stata tutta la vicenda, anche complicata, anche difficile, in certi momenti contraddittoria, turbolenta, che poi per inciso ha portato a un rinnovo contrattuale pesantissimo. Quindi dal punto di vista strettamente monetario Raiola ha vinto come vince praticamente sempre. Però quello che dicevo quest'estate e che ribadisco oggi, e che vale per tutti quelli che hanno un agente nella propria vita, è che ci deve essere un allineamento fra il rappresentante e il rappresentato, e ci deve essere anche una coerenza con chi ti rappresenta. Allora Raiola è sicuramente il procuratore più aggressivo, più attaccante, più spregiudicato che c'è sul mercato in questo momento, cioè quello che ti fa fare le cose più estreme e che quasi sempre, direi sempre, portano a un beneficio economico per l'assistito e a un beneficio spesso anche di carattere professionale. Quindi non stiamo discutendo il valore di Raiola, che è indiscutibile. Nessuno l'ha però fatto. Probabilmente se Donnarumma piange ieri sera e se Donnarumma in questo momento sta male, allora vuol dire che Raiola non è l'agente giusto per lui. Semplicemente. Se invece Donnarumma di fondo piange perché ha avuto una crisi così, ma non gliene frega niente, scusate, realizzo e fra due mesi andrebbe serenamente al Real Madrid, eccetera, eccetera, allora Raiola è l'agente giusto per lui. Non, è una questione di una semplicità irreale, è semplicissima. No, penso, l'ultimo elemento, che per un ragazzo di 18 anni esiste anche un aspetto, diciamo, mediatico, di immagine complessiva, cioè Donnarumma fino a qualche mese fa era il nipotino di tutti gli italiani, era una delle grandi speranze del calcio italiano, era percepito come un ragazzo simpatico e lo è. Oggi sembra veramente, le parole di Gattuso sono molto precise, c'è una bellissima, divertente e terribile per lui parodia che hanno fatto gli autogol di Raiola, che in questo momento rappresenta il senso comune, cioè è uno che veramente una persona che guadagna 1000 euro al mese, ma anche uno che ne guadagna 10.000, voglio dire, dice ma questo qua ma ha 18 anni, quindi è vero, lo sta passando per un mostro, non lo è. Però battesse un colpo, cioè se questa cosa lo fa star male, no, ma è chiaro, un colpo è chiaro. Tocca a allora, lui. Allora io dico una cosa, chiedo, saluto Maurizio Crosetti, ciao Maurizio. Buongiorno, ciao ragazzi. Buongiorno a lei. Ciao, allora, a beneficio di tutti quanti, poi dico quello che penso io su questa vicenda, perché la tempistica mi sembra sospetta. Marco Beninazzo, ti chiedo di riepilogare rapidamente i termini giuridici e legali di questa vicenda, perché ieri qualche ascoltatore si è anche imbizzarrito, estrapolato una tua dichiarazione, hai parlato di dolo da parte del Milan nella mancata firma di questa benedetta clausola. Per chiarezza, poi c'è un articolo che può, come dire, chi ha voglia può andare a leggerlo. Proprio partendo dalle parole di Pierre, cioè sull'allineamento su cui sono molto d'accordo tra giocatore e procuratore, ecco, direi che qui c'è stato un momento, al momento della firma, quindi l'11 luglio dello scorso calciomercato, l'11 luglio scorso, in cui questo allineamento non c'è stato, perché mentre Raiola e i legali del ragazzo avevano lavorato tanto a questa benedetta clausola, che la clausola rescissoria è un qualcosa che tutela alla fine sempre il calciatore, nel senso che gli dà una scappatoia a un prezzo prefissato e chiaramente non il club. Bene, al momento della firma tutte le fonti che abbiamo sentito ci dicono che è stato Donnarumma a non voler sottoscrivere questa clausola. Lo ha fatto perché ama il Milan, lo ha fatto perché voleva restare per sempre al Milan, perché voleva dare un'arma al Milan sul mercato più importante. Non lo sappiamo, non possiamo entrare nella testa di Donnarumma. Il fatto è che questa clausola benedetta, di cui tanto si è parlato anche nei mesi successivi, non è stata firmata. Quindi non è stata firmata e depositata, quindi non c'è questa clausola. Bene. Tutto bene, apparentemente, perché qualche mese dopo i legali del Milan, in quel momento era Leandro Cantamessa, ricevono questa lettera, queste comunicazioni da parte di questi stessi legali della famiglia Donnarumma e di Gigi Donnarumma in particolare, in cui sostanzialmente si dice: attenzione, vogliamo annullare il contratto, quel contratto non è valido, e si prefigurano, diciamo, due possibili scenari dal punto di vista giuridico, perché il contratto diviene annullabile, è quello che poi nel pezzo ho provato a descrivere, o in caso di violenza, che è un caso, diciamo, particolarmente estremo, pistola alla tempia, violenza fisica, violenza morale, sono delle fattispecie precise, ovvero dolo, cioè cosa potrebbe essere successo, per esempio nell'ipotesi più estrema, il fatto che Donnarumma ha firmato un contratto diverso da quello che credeva di firmare per dei raggiri della società. Ripeto, questa è l'ipotesi che viene prefigurata dai legali di Donnarumma, che a questo punto forse si sono riallineati al giocatore. Evidentemente sanno benissimo che non, che ora sì, bisogna capire se sono tutti d'accordo, questo non lo possiamo dire. Diciamo che questo viene prefigurato. Ora lascio a voi il commento su quello che può essere il motivo di questa operazione, perché dal punto di vista giuridico e giudiziario capite bene che in un caso violenza, nell'altro come dolo, sono difficili da dimostrare in giudizio. Allora, anche perché l'onere della prova, sarebbe a carico di, ovviamente, della qual è la strategia Donnarumma Company. Esattamente. Duca Maurizio Cosetti, benvenuto a Un Giorno in Pretura. E io conoscendola piuttosto bene, so già invece, al di là degli articoli del Codice Civile, che cosa le suscita questa vicenda. Però vorrei rendere noto il suo pensiero anche a loro signori che si stanno ascoltando. Beh, io dal pero non casco più da un po' di tempo. Sono stato di quelli che sono cascati dal pero anche in età molto avanzata, e poi alla fine però un bel giorno ti accorgi che forse no, che forse non è il caso di credere sempre a tutto, di pensare che non lo sapessero già prima, di pensare che questo qui è un povero ragazzo vessato da un procuratore che gli fa fare tutto quello che vuole, ma anche da un'emotività che lo porta a piangere, per quando si accorge come Pinocchio di aver fatto qualcosa che forse non era il caso di fare. Insomma, non ci prendessero in giro. È chiaro che questa cosa è stata architettata da subito, sicuramente, io credo, da Raiola e dall'ufficio legale. Non riesco neanche a immaginarlo, io un ufficio legale seduto attorno a un tavolo in cui a capotavola c'è Raiola, tra parentesi, è un grandissimo nel suo genere, però io voglio citare Ivan Zazzaroni, che questa mattina su Twitter ha, secondo me, scritto un tweet ultimo, definitivo: Mino Abens, che è meraviglioso. Quindi io dal pero non casco più. Di sicuro, se fossi una società, ci penserei molto, ma molto attentamente, prima di prendermi in casa, non dico Donnarumma, ma un qualunque giocatore che abbia in scuderia Raiola, che peraltro ormai è più potente di alcuni tra i più potenti presidenti del calcio. Cioè, il sistema del calcio è arrivato a produrre in una quarantina d'anni, siamo passati da Zoff a Donnarumma, non nel senso del paragone dei personaggi, sì, sì, ma da quel mondo a questo mondo. Secondo me non ne valsa un granché la pena. Allora, fermiamoci un attimo per il traffico, così riordiniamo le idee, poi continuiamo a parlarne. 800 24 0024, numero verde. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Sta diventando più showman che altro, quindi, ma noi ci ridiamo sopra, ma con un sorriso che, insomma, non gliela faremo passare. Questo era Mirabelli a proposito del lupo mannaro, Mino Raiola. Stiamo parlando di questa vicenda, io prima l'ho definita Nightmare Before Christmas, più che favola di Natale. Poi ne abbiamo un'altra di favola nera di Natale riguardo al ciclismo, ma ne parliamo dopo. Voglio, dato che a pensare male sono abbastanza bravo, allora io noto che la tempistica di questa commedia mi sembra abbastanza strana e perversa, nel senso che arriva ora prima della metà di dicembre, il mercato del mese prossimo, teoricamente c'è un mese e mezzo abbondante per vendere Donnarumma. Il Milan ha interesse a venderlo perché sappiamo bene la situazione in cui versa, e Berinazzo, che è qui in studio con noi, può parlarne per ore. Dall'altra parte c'è un agente che ha interesse a portarlo via, c'è il Real Madrid che ha un portiere bravo ma in difficoltà fisiche, potrebbe aver bisogno di un portiere adesso, e Donnarumma, che è in mezzo a questi due poli, che è un ragazzo di 18 anni e che è in evidente shock emotivo. Quindi io provo a fare uno più uno, non so se tu, Pardo, sei d'accordo o Crosetto è d'accordo. Sì, io volevo, sì, questo ci sta, questo ragionamento, chiaramente, insomma, non è febbraio o marzo, siamo in un momento nel quale si potrebbe perfezionare un trasferimento, e chiaramente questo tipo di clima rende il trasferimento più facile, anche perché i tifosi, giustamente, lo dico proprio, sai che non me ne frega niente, però, insomma, mi metto nei panni dei tifosi del Milan, certo, insomma, quello striscione, certo, come fai a dargli torto? Adesso, no, è comprensibile, insomma, è il prodotto Milan, normale, cioè, naturale. Ma trattare il Milan come fosse un trampolino di lancio, è vero che non è un momento straordinario, ma stiamo parlando di uno dei club più titolati al mondo, adesso non mi metto a fare classifiche, se no stiamo parlando di un club pazzesco, ed è assurdo che venga trattato così. Quindi da questo punto di vista mi associo completamente al pensiero della, credo, maggioranza dei tifosi del Milan. No, tornando al discorso di Crosetti di prima, c'è un elemento secondo me importante che è legato all'età di questo ragazzo e che torna al punto di partenza, cioè al fatto che ci deve essere una relazione, una coerenza con chi ti rappresenta, nel senso che il danno d'immagine che sta avendo Donnarumma per questa vicenda è enorme. Poi è vero che il calcio è meraviglioso perché ogni settimana cambia tutto e quindi c'è tempo per recuperare, soprattutto se si è bravi, e Donnarumma è bravo, quindi ha la possibilità negli anni di cancellare tutto questo. Però cioè, la figuraccia che sta facendo agli occhi, ripeto, non soltanto degli sportivi, ma di tanti italiani, questo ragazzo, è assurda. Sì, ed sì, è un danno incalcolabile. No, poi è un ti faccio un esempio molto semplice. Abbiamo lungamente discusso di Ventura e della conclusione del suo rapporto con la nazionale, partendo dal presupposto che quei soldi comunque gli spettano, questo certo, è punta di diritto, certo. Per carità, è facile parlare dei soldi agli altri, però sicuramente avrebbe potuto, io l'ho detto in questa stessa radio, organizzare un piano B con la federazione, trovare un compromesso e uscirne con un'eleganza diversa, sì, rinunciando a una parte dello stipendio, ma con una figura molto migliore. Ma alla fine Ventura è un signore di 70 anni che ha avuto una buona carriera e che probabilmente è alla fine di questa carriera, quindi ci sta che alla fine della carriera tu possa voler monetizzare anche a costo di fare una mezza brutta figura. Qui stiamo parlando di un giocatore invece che ha tutta la vita davanti e non c'è, e la cosa illogica è proprio questa. Cioè, questo ragazzo qui starà guadagnando un sacco di soldi, adesso guadagna 6, magari tra le partite guadagnerà 8. Per carità, non giudico i soldi degli altri, sono contento per lui che guadagni se firma i contratti, non con la pistola alla tempia. Ma dal punto di vista dell'immagine è un autogol clamoroso. No, ma poi anche dal punto di vista, anche cioè, dal punto di vista della 20 anni di carriera davanti. Lo so, però anche dal punto di vista emotivo, cioè alla fine non ti dico poverino, poveretto, mi fa pena, ma è un ragazzino di 18 anni che dice fai così, fai cos'ha, lui prova a parare. Sì, però ragazzino di 18 anni, è complicato. Oggi, Se veramente è in questa situazione emotiva, cioè se non condivide i metodi del suo, se, perché io non lo so, sì, da una parte c'è la famiglia e lui è lì in mezzo. Se non li condivide, fa una cosa, ci telefona 800 24, sto scherzando, voglio dire, chiama Lanza, chiama chi gli pare e lo dice e prende posizione, perché non può rimanere lì in mezzo. Sì. Se rimane lì in mezzo, ogni minuto in più che passa vuol dire che sta avallando la scelta del suo agente. Sì, Maurizio. Che ripete, una scelta magari anche giusta. Sì, sì, però è una scelta, però è così. Di uno che vuole prendere i soldi. E viene crocifisso su una croce d'oro. Maurizio. Ah, io entro la mezzanotte, se fossi il papà di Donnarumma, di là che non lavorerei più, se fossi ovviamente. Anche solo il fratello, ecco. Se fossi il famoso fratello di Donnarumma, direi: caro Gigio, mandiamo una bella lettera al signor Mino Raiola e ci cerchiamo un altro procuratore. Perché quello che dice Pierre è verissimo. Stanno distruggendo non solo l'immagine, ma l'equilibrio psicologico di un portiere, di un ragazzo che ha bisogno di questo equilibrio come il pane. Tutti ne abbiamo bisogno, ma un portiere anche di più. Quindi il danno che sta procurando Raiola a Donnarumma secondo me è enorme. Donnarumma non avrà comunque problemi a fare una grande carriera per le doti che ha, per i mezzi, per il mercato, insomma la gestione degli ultimi mesi, non parlo dal punto di vista del conto corrente che comunque non credo che avrebbe pianto in nessun modo, è disastrosa. Quindi sarebbe anche opportuno che qualche volta i calciatori capissero che un procuratore non è solo una macchina che serve a loro a cambiare il più possibile squadre e a guadagnare di più, che una carriera breve comunque come quella di un atleta deve tener conto anche di altre basi e che questo è uno squilibrio che alla fine danneggia questi giocatori. Ne abbiamo visti tanti bruciarsi, sì, Maurizio, correndo dietro a cambi di contratto, offerte strane. Tanti talenti che non si sono espressi, ha tutta la vita davanti, come si dice. Mandi questa lettera, ragazzo Gigio, ascolta papà, manda questa lettera. Ryan. Guardate che poi, insomma, non per spostare il piano su questioni più pragmatiche, diciamo, e meno sentimentali, ma oltre al danno che si sta creando al ragazzo, a quello che è anche un patrimonio del club, come è stato ribadito anche ieri, cioè c'è qui un danno d'immagine che si sta facendo al Milan, società. Ah, sicuro. Cioè, perché si viene a prefigurare, e nessuno ha smentito che sia stata mandata questa lettera, Marco, o che questa avvertenza sia stata prefigurata. Si sta facendo il danno d'immagine a una società, sfruttando un momento delicato di questa società, che però la fa passare nel mondo come una società che in qualche modo obbliga i giocatori a firmare i contratti che poi non vogliono firmare, che sfruttano il momento di poca serenità psicologica di un atleta per imporgli determinate clausole e un aumento a 6 milioni. Cioè, quindi è chiaro che il signor Raiola sta danneggiando il suo assistito, sta facendo danni al Milan, e il Milan fa bene, insomma, a reagire nei modi che riterrà più opportuni, ma deve reagire il Milan in qualche modo, e Donnarumma deve scegliere da che parte stare. Poi qui possiamo chiederci se il Milan è una società vera, una società di cartapesta. Ieri non mi ricordo se un ascoltatore o qualcun altro con totale ragione ha detto, senza giudizi di valore o di merito di qualunque altro tipo, ci fossero stati Galliani e Berlusconi, con il cavolo che succede una cosa così. Però Io prima di salutare Maurizio Crosetti volevo una sua battuta sull'altra storia black, sull'altra black history che precede il Natale, dato che siamo entrambi appassionati e poi ne parleremo. Chris Froome e tutti questi corridori con l'asma. Poverini, è un problema, è una patologia respiratoria che davvero può impedire di vincere anche 10 Tour de France di fila, accidenti. Guarda, io sono stato testimone oculare della prima frullata grande, storica, diciamo, di Froome al Tour de France del 2013 sul Mont Ventoux. Ricordo, non credevo ai miei occhi quel giorno, sono stato anche un modesto corridore ciclista da ragazzino, quindi so cosa vuol dire per un corridore farsi qualificare per traino sul mortirolo, quindi vuol dire che non andava avanti e si era agganciato a una macchina, a un Giro d'Italia lo squalificarono, questo stesso personaggio l'anno dopo frulla tutti sul Ventoux. Non ci ho creduto allora, non ci credo adesso, al di là dell'asma e delle medicine. Siccome ho cominciato questo collegamento dicendo che non cado più dal pero, ecco, per Froome non ci sono cascato nemmeno dal pero nel 2003. Dopodiché la presunzione di innocenza vale per tutti, ma non ho mai visto un corridore che si fa trainare diventare un 4 volte vincitore del Tour, mai visto. Anzi, l'ho visto una volta sola e ci avevo pure creduto quella volta. Si chiamava Lance Armstrong, ma allora io cadevo ancora dal pero. era ancora il tempo delle mele, oltre che delle pere. Esatto. Poi quante ne abbiamo sentite di bugie dai corridori, noi che amiamo questo sport? Mi hanno devastato veramente le budella. Tanto voglio bene ai corridori, tanto mi appassiono, tanto faccio finta di non guardare fino a provetta contraria nel loro sangue, perché mi piace guardare nei loro occhi, non nel loro sangue. Ma poi voglio dire, ogni pazienza ha un limite, come diceva Totò, e questo limite è stato ampiamente superato. Io purtroppo sono arrivato al punto di quasi non riuscire più a guardare le corse, e guarda che è lo sport che mi piace di più in assoluto, quindi lo figurati so, un po', lo so. Altro ciao. Che Donnarumma, perché me ne frega di Raiola, il problema è l'Epo. Ciao Maurizio, grazie, un abbraccio. Ciao Maurizio. Ci fermiamo tutti un attimo perché per la borsa, poi Matteo e Fabio sono ascoltatori, sono saliti da un po', risponderemo loro non appena torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta convocati. Allora, io direi che è il momento di dare voce agli ascoltatori che sono in attesa da un po', con Pierluigi Pardo e Marco Bellinazzo qui presenti. Matteo, buongiorno. Sì, salve, le faccio, guardi, due considerazioni su Donnarumma. La prima, che è proprio lui il più, diciamo, patetico di tutta questa storia, perché si può alzare domattina, licenziare Raiola e giurare amore eterno al Milan. La seconda è che voi avete detto che Raiola, diciamo, sta facendo un danno d'immagine a Donnarumma. Io non sono così convinto di questa versione, in quanto lui fra 2-6 mesi andrà a Parigi o a Madrid a guadagnare il doppio, a giocare la Champions League, quindi non penso che sta facendo gli interessi del suo assistito. In un modo spregevole, se volete, però sì, il danno d'immagine fra 2 mesi si sono già dimenticati tutti, sarà il futuro portiere della nazionale per 15 anni, quindi questo lo vediamo. No, visto, risponde Pardo, perché ha parlato di danni d'immagine. No, può essere, io questa ipotesi la considero, l'ho detto prima, appunto il calcio è liquido, cambia di mese in mese, di partita in partita, quindi figuriamoci, ha tutto il tempo e il talento per cancellare questa macchina, ma questa è una macchina per un ragazzo di 18 anni, cioè non sta cominciando una carriera da giocatore, tra virgolette, normale, che cresce pian piano, con un sacco di talento, cioè Buffon non ha fatto queste cose, tanto per essere chiari. Buffon ha iniziato la sua carriera in un club, piano piano ha guadagnato, chiaramente ha avuto degli adeguamenti, ci mancherebbe altro che non li abbia perché è bravo, ma non in questo modo. Però ripeto, se Donnarumma in fondo condivide questa strategia, non c'è niente di male. Nel calcio di oggi siamo adulti, vaccinati e laici, e quindi va benissimo. Cioè, se Donnarumma è d'accordo con Raiola, sa che l'obiettivo è quello, di fondo è disposto a lasciare il Milan per andare a guadagnare di più e andare in club migliori in questo momento rispetto al Milan, perché c'è anche questo, insomma, Real Madrid in questo momento è meglio del Milan, lo sanno pure i tifosi rossoneri, no? va benissimo, però a quel punto vuol dire che le lacrime sono soltanto lo sfogo di un momento e non c'è niente dietro, non c'è niente di più sostanzioso e di più importante. Se invece il ragazzo vive un travaglio di questo tipo e non condivide la strategia, secondo me deve fare un passo indietro, ma io, ti dico, non deve neanche necessariamente secondo me lasciare Raiola, deve semplicemente dire a Raiola: guarda che io voglio un'altra strategia, sì, voglio certo. essere trattato in maniera non, diversa, non riesco, voglio crescere ma gradualmente. E secondo me Raiola se lo tiene comunque stretto, perché Raiola è fortissimo, potentissimo e bravissimo nel fare quello che fa, ma Donnarumma è un talento, quindi qualunque procuratore, cioè c'è la fila di procuratori bravi che vanno a prendere Donnarumma, quindi Donnarumma, anche se è giovane, deve sapere che lui ha un potere di dire di no se non condivide questa strategia, se non la condivide. Se invece la condivide, va tutto bene, andrà via, il Milan prenderà 40 milioni e ce lo dimenticheremo. E poi forse, come dice l'ascoltatore, sarà talmente bravo, e glielo auguriamo, questo portiere, che ci dimenticheremo di questa macchia, ma la macchia c'è sicuramente. Pier, ti ringrazio, ci sentiamo domani. Adesso vado sull'argomento di qui sopra. Tu stai qua, sì. non te muove. Mentre traghettiamo verso l'altra storia di cui sopra, cioè quella relativa al più forte corridore del mondo attualmente, cioè Chris Froome, Fabio da Bergamo. Sì, grazie alla convocazione. Allora, io vedevo la questione Donnarumma da un altro punto di vista, cioè che secondo me il male di Donnarumma lo sta facendo il Milan, e spiego. Bisogna ripensare a quando è stato sottoscritto il contratto, cioè il Milan con la campagna faraonica sembrava che dovesse spaccare il mondo e diventare la squadra più forte, quindi anche Donnarumma aveva la prospettiva di poter vincere qualcosa. Ad oggi gli ultimi episodi stanno dimostrando, anche societari, che questo probabilmente per i prossimi anni non potrà avvenire, quindi ha espresso, secondo me, del malcontento. A questo punto il Milan sta cavalcando la situazione, sempre per rimanere in termini botanici, lo usa come foglia di fico e nessuno cade dal pero, nel senso che sta usando il ragazzo per coprire in questo momento le figuracce a livello economico che stanno facendo in giro per il mondo, e quindi distogliere l'attenzione dei mass media piuttosto che dei tifosi, dice: abbiamo dei problemi societari, no, parlate di Donnarumma perché non pensate ai problemi che abbiamo in società, e quindi stanno usando il ragazzo in momento per far sì che si parli di lui e non dei casini che hanno a livello finanziario, ecco. Beh, un po' estrema, ipotesi. Beh, sarebbe una strategia bizzarra di comunicazione, comunque, come dire, alla lunga controproducente, insomma, perché anche il Milan, che viene dipinto comunque in maniera negativa e comunque come una società che si trova alle prese con questo tipo di vertenze sollevate dal suo giocatore di miglior prospettiva e di maggior talento, per cui sì, insomma, siamo il paese della dietrologia, ma fino a questo punto, insomma, meravigliere, non cadiamo dal pero come Crosetti, insomma, ma non esageriamo nemmeno poi a restarci come troppo. Senti, sotto. Di palo in frasca a proposito di storielle curiose, di questioni finanziarie ce ne sarebbero un paio che, insomma, andrebbero affrontate. Una è il prestito obbligazionario lanciato dall'Inter: prestateci a noi poveretti 300 sì. milioni fino al 2022. Mi sembra che sia già successo che in quest'ottica, diciamo, non c'è sostanzialmente anche qui il lancio di un prestito per chiudere quella che era un'altra posizione debitoria con Goldman Sachs, che era stata aperta all'epoca di Tohir. Era di 200 milioni, insomma, dato che è stato pagato gran parte di questo prestito, questo mutuo, mettiamola così, e ora si va a chiedere al mercato 300 milioni per ripagare questa parte, quindi chiudere Goldman Sachs, avere invece sul mercato magari tassi migliori, avere poi altri soldi per fare le operazioni. Il problema è che se sommiamo questo bond ai prestiti che Suning sta facendo all'Inter, arriviamo quasi a 600 milioni. Allora mi chiedo perché una società che, per esempio, ora ha incassato Suning più di 500 milioni da Alibaba, perché ha venduto la propria quota di Alibaba e quindi ha incassa molta liquidità. Evidentemente, diciamo, c'è questa strategia che da un lato dipende dal fatto che tu presti dei soldi al club perché c'è la quota di Tohir, certo, il 30%, e quindi finché Tohir non esce puoi essere sicuro di avere la possibilità di riottenere avere questi soldi. Poi mi auguro che nel momento in cui esce Toir si converte questi soldi in capitale, quindi si rafforzi il club, perché altrimenti torniamo all'epoca Toir in cui l'Inter è comunque costretto a pagare tanti interessi. Quest'anno pensiamo 30 milioni di interessi, insomma è un buon giocatore che puoi comprare con 30 milioni. Ah, come no? Quindi questa strategia, diciamo, di Suning mi lascia un po' perplesso, ma credo che sia legata più a questioni contingenti e aziendali che altro. Sì, ci sono anche club come Barcellona e Real Madrid che hanno sempre fatto ricorso al prestito, il prestito viene concesso, avere poi dei pago debiti gli interessi, per poi un'azienda, per un'azienda non è un problema se quei debiti sono funzionali a un progetto, agli investimenti e li puoi ripagare. Diventano chiaramente un problema quando sono dei debiti patologici che vengono fatti per fare, come dire, per rimediare a quelle che sono delle mancanze di cassa. L'Inter chiaramente non si trova in questa situazione e l'importante però è comunque tenere monitorata questa condizione di Inter creditore di Suning, perché sta raggiungendo comunque livelli importanti. E mi auguro, ripeto, che sia soltanto legata alla situazione di Toir, alla situazione contingente, quindi quando poi uscirà Toir questi prestiti si tramuteranno in capitale e saranno poi patrimonio del club, su cui comunque tra questi prestiti, l'incremento di aumento di capitale che comunque ha fatto già Suning quando ha comprato il club, quello che ha pagato per il club, insomma Suning ha investito oltre un bel po' di soldi, oltre mezzo miliardo, quindi insomma da questo punto di vista c'è da stare tranquilli. Traffico e poi andiamo su un altro tema. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. So here we are, we are alone, this weight on your mind. Bellissimo arrivo con Froome che va a questo punto a vincere questa tappa. L'altra volta spinge, l'avevano fregata 25 ma metri, volta no. Questa volta non ha commesso alcun errore Chris Froome, vittoria di tappa, 10 secondi da buono, una prima settimana perfetta e Froome esulta come raramente fa, con grande entusiasmo. I want the truth from you. Give me the truth, even if it hurts me. Allora ricordo che usiamo questa base musicale, The Truth, Good Charlotte, un pezzo non notissimo. Quando parlammo di Lance Armstrong, ora non voglio fare alcun parallelo né paragone, però. I want the truth. So this is you. Voglio la verità anche se mi colpisce. Vorremmo la verità dal ciclismo, vorremmo la verità dai corridori, perché Froome sta al ciclismo come Pier Augusto Staggi, come chi sta al calcio, Messi, Cristiano Ronaldo, tutte e due insieme. Sicuramente Cristiano Ronaldo, Messi è l'atleta di riferimento, è l'uomo che negli ultimi 5 anni è stato chiaramente il più forte, anzi poteva essere negli ultimi 7, perché un tour l'ha perso, perché l'ha perso quando l'ha vinto Vincenzo, quindi è stato lui a interrompere, l'altro l'ha regalato perché sostanzialmente si è dovuto chinare ai doveri agli obblighi di squadra per Sir Bradley Wiggins, che anche lui si sta portando dietro da anni ormai una nuvola di sospetti, addirittura in Gran Bretagna è stato sotto giudizio fino a pochi mesi fa, così un po' come Froome, perché non è per cattiveria, quello che viene oggi un po' esplicitato, anche se non in maniera chiara e inequivocabile, però viene detto una cosa che si dice ahimè da tanti anni, no? La sua pedalata sospetta, i suoi vantaggi, i suoi recuperi, la sua sofferenza, le sue malattie, perché questo comunque diventa uno degli atleti più incredibili, perché nella storia del ciclismo è un pochino di storia, l'ho letta, l'ho vissuta, è difficile trovare un atleta che ha avuto le malattie che ha avuto Chris Froome. Qui credo che abbia avuto un po' di tutto, no? Dal tifo agli orecchioni. Sì. Le orecchioni le abbiamo avuti tutti, ma ci sarà un corridore sano, voglio dire, lui è secondo me uno dei simboli, forse pochino per far sorridere, no? Dopo una canzone comunque molto suggestiva e bella, Carlo. Però per far sorridere, che può essere veramente la pubblicità a non arrendersi mai. Perché se stai male, hai dei problemi, hai delle limitazioni, non ti preoccupare, un Tour de France puoi vincerlo. Sì, anche più di uno, però non capisci, lui ne ha vinti 4, uno l'ha regalato, uno ha fatto finta di non vederlo, ha vinto due vuelte che comunque, no, una vuelta che comunque un'altra, anche quella l'aveva regalata. È un fenomeno, è un fenomeno, un corridore che ha cominciato non dal basso, perché questo ci terrei, nella storia del ciclismo, grosso modo, i corridori di eccellenza che poi si sono anche gonfiati artificialmente, comunque sono stati aiutati, però hanno avuto una linearità, cioè sono nati campioni e campioni si sono confermati. Froome è un corridore che nasce quasi dal nulla, viene scoperto in Sudafrica da un team manager italiano molto bravo, Claudio Corti, che è stato anche direttore, campione di ciclismo, e direttore della Saeco, eccetera. Direttore di Gianni Buglio, quando si chiama Stanga, quindi c'è una persona di grande competenza che l'ha scoperto, l'ha individuato e l'ha portato in Europa, in modo particolare in Italia. Infatti sa anche parlare un po' l'italiano, discretamente bene, alla Barlow, per una squadra sudafricana. Ha fatto due giri d'Italia, il primo 37esimo, il secondo è stato cacciato perché si è attaccato alla Muraglia. Sì, lo ricordavamo prima, sì, sul Mortirolo. Era un corridore tutto da... va bene, non sapeva andare in bicicletta, non sapeva stare in gruppo, ci sta tutto, però da lì, da uno che toglie praticamente le rotelline, impara ad andare in equilibrio e poi nel giro di 3 anni si diventa uno degli atleti più grandi in assoluto della storia del ciclismo. Noi siamo ammirati ma anche sorpresi e ci poniamo dei grandi interrogativi, e infatti comunque ce li poniamo un po'. Ma sì, anche perché, come diceva prima Cross, non cadiamo più dal pero da un bel pezzo. Marco Berinazzo, che ne pensi? Beh, credo che a proposito dei danni d'immagine, insomma, per il ciclismo, se ci fosse confermato, la doppietta Armstrong-Froome, insomma, anche per chi lo ama in maniera spasmodica, mi ci metto, insomma, poi andare a guardare ancora le corse, insomma, diventa dura. Poi vanno a raccontare agli sponsor. Ma il problema poi è che anche in questo caso l'idea che ci sia stata l'assunzione di questo farmaco in una misura supplementare rispetto ai limiti consentiti per via dell'asma, cioè in un momento in cui sei l'atleta più importante e il più chiacchierato, no? Perché non ce lo nascondiamo, insomma, fai un errore di questo tipo, ecco, mi sembra cercare proprio una foglia di fico perché non può essere un errore, non ci può essere un errore a questi livelli, no, assolutamente. Bisogna cominciare a chiedersi cosa nasconda l'assunzione di quel farmaco, e quindi insomma aspettiamo le controanalisi e tutto, però la botta d'immagine è incredibile. Io nel mio piccolo, ma per Augusto Stagi, nel mare magno del ciclismo in cui naviga da un sacco di tempo, di balle, di bugie, di ricette dei dentisti, di caramelle, cos'altro abbiamo sentito? Di tè, della pomata, poi cosa mai? Su posto niente? Stiamo tutti bene? Anche su posto. Pier, senti, in un minuto volevo sottoporti questa riflessione, poi su questo caso ovviamente torneremo perché è uno dei casi del momento. Le parole di Nibali, che ha grosso modo detto, il ciclismo ormai viene rivisto, viene rivisitato da queste vicende, però anche dovessero ridarmi un mantello rosso, quello della Vuelta, l'emozione di mettermelo all'ultimo atto non me la ridarà mai nessuno. Ma è la stessa cosa che ha detto il povero Michele Scarponi quando ha vinto a tavolino il Giro d'Italia di Alberto Contador. E infatti io sono più arrabbiato, non tanto con Froome, ha ragione Marco Bellinazzo, dire che è un danno d'immagine, che sono degli errori grossolani, tutto vero. Però ci vuole anche un po' di chiarezza e anche un po' di semplificazione da parte dell'organo che è deputato a governare il mondo del ciclismo, in questo caso l'Unione Ciclistica Internazionale. Bisogna decidere una volta per tutte, senza tante balle, lasciamelo andare, lasciamelo passare, che chi ha l'asma, se a un certo punto gli manca il respiro, fine, paga dazio. Perché è uguale, esattamente uguale a Fabio Aru, che a un certo punto del suo tour dell'anno scorso, perché aveva preso freddo, vive una giornata di grande crisi perché ha la bronchite. Non è che per fare ricorso dei farmaci per farsi passare la bronchite e rimanere attaccato a fronte. Lo so, quindi, sono cose che succedono, quindi, ti ritiri, è normale, sì, Piero Augusto, hai perfettamente ragione. Cioè si deve fare un passo indietro nel momento in cui non ci sono più le condizioni fisiche per gareggiare, e questo è sacrosanto. Pier, ti ringrazio, ci sentiamo molto presto, perché su questo caso ovviamente ne usciranno delle altre. Ciao Marco, ti ringrazio. Ciao, a presto. A presto, Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2, ragazzi. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!